Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente del vertice, che ha una fortissima connotazione di carattere economico, direi quasi solo economica, la connotazione tra Angela Merkel e Matteo Renzi, iniziato il faccia a faccia verso le 16.40, stando a quello che riportano le agenzie, verso le 18 dovrebbe esserci una conferenza stampa e comunque l'incontro con la stampa. Ma parleremo anche di Pirelli, nel giorno in cui si è sciolta l'intesa dentro il gruppo Pirelli, è controllato a sua volta da una società che si chiama Camfin. Dentro Camfin c'era un'intesa con Clessidra, Intesa San Paolo e Unicredit. Hanno sciolto la partnership in Lauro 61 Camfin, e quindi che è successo? Che il fondo di private equity Clessidra se n'è uscito, è entrato invece Rosneft, e quindi i russi, che hanno preso il 50% della holding che controlla Pirelli. L'altro 50% è diviso tra un 80% che tiene Marco Tronchetti Provera e un 20% di banche. A questo punto i russi di Rosneft diventano il primo azionista unico, non l'azionista di controllo, perché hanno il 50% e gli altri hanno pure il 50, però è il primo azionista unico, l'azionista di maggior peso dentro Camfin e quindi dentro Pirelli. Di questo parleremo. Il titolo come ha reagito? Non bene, perde il 2,82%, mentre, visto che parliamo di borsa, sta andando fortissima A2A, più 7% dopo i conti diffusi nel fine settimana. Finmeccanica più 5,95%, quasi 6% di rialzo. E ancora Enel, come tutti gli energetici oggi, va bene, più 3,60% Enel in particolar modo, Snam più 1,60%, Enel Green Power più 1,80% ed Eni più 1,23%. Sale oggi anche Telecom più 3,5%, perché sale sulla notizia che non la riguarda direttamente ma riguarda il mondo della telefonia, ossia Vodafone ha chiuso l'accordo per comprare l'operatore spagnolo che si chiama Gruppo Corporativo Ono, pagandolo 7,2 miliardi di euro, includendo però anche in questo il debito. Secondo Vodafone questa operazione garantirà risparmi per circa 2 miliardi di euro. E già l'anno scorso Vodafone aveva acquistato la tedesca Kabel, anche qui pagando tanto, 10 miliardi di euro. Quindi Vodafone continua il suo percorso, come si chiama in gergo, di consolidamento ed espansione. Ripeto, anche di questo parleremo. Per quello che riguarda la borsa, complessivamente più 2,24% Milano, più 1,30% Parigi come Francoforte, più 0,70% Londra, più 1% l'America. Parleremo anche di alcuni sprechi delle nostre regioni. Qualcuno di voi avrà sentito, spero, la puntata di giovedì dove il governatore della regione Campania, Stefano Caldoro, nostro ospite, ha detto: attenzione, noi, io sono a favore dell'abolizione delle regioni così come sono fatte, rimodulazione, cambiare l'articolo 5 della Costituzione in maniera ancora più aggressiva rispetto a Renzi, perché in questo momento le regioni duplicano, la traduco in maniera molto semplice, le funzioni con lo Stato, e invece occorre che vengano ben ridefinite le materie esclusive. E a questo proposito vi leggerò qualche cifra su questa, ma non è un vizietto, è la possibilità che le regioni hanno di, dopo quella famigerata riforma dell'articolo 5 della Costituzione che fece il centro-sinistra, sbagliatissima perché è andata a creare sovrapposizioni e sprechi, ma dicevo, le regioni possono fare promozione e politica estera nel mondo, perché e ognuna può fare la sua politica estera. Allora speriamo che vada in porto la riforma proposta anche da Renzi, ossia di riportare fra le competenze esclusive dello Stato il commercio con l'estero. Questo prevede il disegno costituzionale proposto da Renzi, perché quello che vi racconterò significa sprecare risorse per nulla, anche perché, voglio dire, la singola regione, quando va a promuovere il made in Piemonte, il made in Veneto, il made in Emilia Romagna, il made in Campania, in Cina, in India, in Indonesia, ma che potere volete che abbia? Ne parliamo fra qualche minuto. Avremo anche un breve approfondimento e aggiornamento sulla vicenda ucraina, che come vedete non sta pesando sui mercati, ma sicuramente si sta complicando, anche perché poco fa il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha dichiarato che vi potrebbero essere tensioni sui prezzi del gas, visto l'aumentare della tensione in Crimea e in Ucraina. Nel suo complesso, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. La passione sud, il nostro viaggio nelle regioni del nostro mezzogiorno, continua anche questa settimana, sia con i viaggi dentro il GR24, sia con i programmi, anche questa settimana Focus Economia, ma Carlo Gente Pardo, e quindi mi riferisco a tutti i convocati, e Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone con Cuore Denari, saremo a Bari mercoledì, quindi ve lo anticipo, in diretta da Bari, e poi le prossime settimane toccherà la Sicilia dei brevi. Allora, per quello che riguarda altre notizie, partiamo di Pirelli e di Vodafone, abbiamo detto. Sappiamo che invece per quello che riguarda la tensione con la Crimea, sia gli Stati Uniti che l'Europa non hanno riconosciuto il referendum in Crimea, quello che ha votato per il 95% l'annessione alla Russia, diciamo, lo considerano illegale. Putin ha ripetuto invece al telefono a Obama che il voto in Crimea è valido. L'Europa ha introdotto le sanzioni contro i russi, sono praticamente 21 le persone inserite nella lista delle misure restrittive decise dall'Unione Europea contro alcuni politici e alcuni militari di Russia e Crimea. Delle 21 personalità, 13 sarebbero russe e 8 appunto della Crimea. E con le sanzioni ai vertici russi, gli Stati Uniti puntano a colpire l'economia di Mosca. In particolare si aspettano un vantaggio del 3% nel cambio tra il dollaro e il rublo. Lo ha detto la stessa Casa Bianca, aggiungendo che contro Mosca c'è l'isolamento internazionale. Allora, andiamo invece all'Europa 18, l'inflazione è in calo a febbraio allo 0,7%, però la cosa interessante è che questa Europa a due velocità la si vede anche nell'andamento dei prezzi. Là dove l'economia va bene, i prezzi salgono come vorrebbe la BCE, quindi intorno al 2%, là dove invece l'economia è in recessione, è in ginocchio anche per le politiche adottate, i prezzi sono in deflazione. Faccio l'esempio: Spagna più 0,1% l'inflazione su base annua, che elevando la componente energetica è già deflazione. Grecia meno 1% anche all'interno della componente energetica. Portogallo meno 0,1% i prezzi, deflazione. Irlanda più 0,1%, quasi deflazione. E invece Germania più 1%, Finlandia più 1,6%, Austria più 1,5%. E poi una notizia che non ci fa piacere, ma è così: l'Italia è stato l'unico paese del G20 negli ultimi tre mesi del 2013, quelli in cui l'ex ministro Saccomanni vedeva la ripresa in atto, ma solo lui la vedeva. Dicevo che l'Italia è stato l'unico paese a fare nell'ultimo trimestre 2013 avere un segno meno sul PIL, meno 0,9%. Volete sapere di Merkel e Renzi? Non ci sono molte novità. Ricordo quello che ha detto il Presidente del Consiglio, ha detto: l'Italia non è un alunno somaro da mettere dietro la lavagna. E poi, per quello che quindi non andiamo a Berlino come se fossimo dei somari, degli alunni cattivi. Per quello che riguarda il Jobs Act, ha detto: non mi interessano le polemiche sul decreto lavoro, mi interessano i ragazzi che non hanno un lavoro, non i sindacalisti o le associazioni di categoria. intanto però Der Spiegel online, devo dire l'edizione online, dice che Renzi va da Angela Merkel spera in una licenza per fare debiti. Con metodi rudi, Matteo Renzi ha preso il potere in Italia, eppure ora nella sua visita di insediamento a Berlino potrebbe essere docile. Alla fine vuole vendere alla cancelliera Merkel una tesi spinosa. Il suo paese dovrebbe fare più debiti e questo sarebbe un bene per l'Europa. Ora, con tutto il bene che voglio a Der Spiegel, cioè praticamente zero, posso far notare che sono poco informati. Nessuno qua ha detto di voler fare più debiti, si è chiesto di calcolare gli investimenti non come gli sprechi, non come la spesa corrente, o se no ci dicono i tedeschi come i consumi in Italia possono ripartire, visto che ho appena letto i dati relativi agli ultimi tre mesi del 2013. Se poi ogni volta che uno spende sta facendo un debito, beh, è un approccio interessante, perché se uno fosse un manager dovrebbe dire che quando compra un macchinario o fa un investimento di un certo tipo sta facendo un debito. Di solito queste cose si fanno per aumentare la produzione. Di questo stiamo parlando, caro Der Spiegel. Mentre sulla spending review il ministro della difesa Pinotti dice che è lecito pensare alla chiusura di 385 caserme con la creazione di una task force per gestire la vendita e anche di una riduzione degli F-35, si viene a sapere che l'effetto dei piani di tagli a cui lavora Cottarelli porterebbe, per risparmiare 700 milioni di euro, 40.000 uomini in meno nei prossimi due anni per le forze dell'ordine e vigili del fuoco. I carabinieri scenderebbero da 118 a 95.000, la polizia da 110 a 97.000, la guardia di finanza da 68 a 56.000. Che, per carità, adesso io non sono in grado di sapere se sono troppi 120.000 carabinieri, ma quello che mi chiedo, ma è mai possibile che i tagli nella pubblica amministrazione debbano prendere in primo luogo in considerazione i carabinieri, guardia di finanza e polizia, che per carità forse sono troppi, ma secondo me c'è anche qualcosa di più. Ci sono 22.000 dipendenti dalla regione Sicilia, quelli non sono pubblica amministrazione, più tutti gli altri che abbiamo raccontato. Boh. Cioè, tra un camminatore in meno, visto che parliamo della Sicilia, e un poliziotto in più, io preferirei che restasse al lavoro il poliziotto. Il camminatore, quello che porta i fascicoli ed è pagato per questo, nel 2014 la regione Sicilia non ci fosse più. Boh, chiedo. Intanto sul fronte TASI, la nuova TASI si prospetta come una vera e propria simil IMU, lo dice la Federa Consumatori, dicono che potrebbe anche essere più cara della IMU, perché nel 2012 5 milioni di prime case erano esenti, bisogna stare attenti alle detrazioni. E tra l'altro hanno sempre Federa Consumatori ha fatto un calcolo che la TASI nelle seconde case supererà i 2.000 euro nelle 10 città più care, secondo le previsioni appunto di CREF, Federconsumatori. Nel caso specifico potrebbe toccare 4.000 euro a Roma, 3.200 a Torino, 2.800 a Bologna, sopra 2.000 euro per una casa di 100 metri quadrati a due sarebbe anche a Milano, Padova, Firenze, Venezia e Massa Carrara, ma anche La Spezia e Siena. Questo anche nell'ipotesi che i comuni adottino l'aumento dello 0,8 per 1.000. In quel caso, al di là della tipologia di appartamento, in media si pagheranno 1.425,13 euro, quindi 106 euro in più rispetto all'IMU 2013. A questo proposito segnalo che domani, da martedì, quindi 18 marzo, il Sole 24 Ore esce con 4 giornali in uno, perché c'è il giornale dell'attualità, dell'economia reale, della finanza, e c'è anche il giornale dei professionisti, è il nuovo Norme Tributi con anche i dizionari della vita pratica, dove viene aumentata l'informazione di servizio per i professionisti, per le imprese, per i manager, per gli amministratori, ma anche per i cittadini. E in bocca al lupo quindi per il nuovo dorso, come si chiama in gergo, di Norme e Tributi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo con il primo tema, che non è il vertice Merkel-Renzi, ma è il vertice Obama-Europa. Allora, l'ira di Obama e dell'Europa sul Cremlino, Washington e Bruxelles che non riconoscono il voto, che considerano illegale, e le sanzioni adottate non sono di carattere economico in senso stretto, però avranno un impatto economico, come ha detto lo stesso Obama, dopo aver ricordato che Mosca è isolata nel mondo, ha aggiunto Obama, c'è ancora spazio per la diplomazia, queste sanzioni avranno l'effetto di indebolire il rublo. Ieri ho detto al presidente Putin che il referendum in Crimea è una chiara violazione della Costituzione ucraina e delle leggi internazionali e che non sarà riconosciuto dalla comunità internazionale. Oggi annuncio una serie di misure. Innanzitutto imponiamo sanzioni a una serie di persone responsabili di aver minato la sovranità, l'integrità territoriale e del governo ucraino. Vogliamo che sia chiaro che ci saranno conseguenze per le loro azioni. E se la Russia continua a interferire in Ucraina, siamo pronti a imporre ulteriori sanzioni. Continuano le consultazioni con i nostri partner europei che oggi a Bruxelles hanno deciso le loro sanzioni contro la Russia. Questa sera il vicepresidente Biden parte per l'Europa per incontrare i leader dei nostri alleati NATO, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Io stesso sarò in Europa la prossima settimana. Il nostro messaggio è chiaro. Come alleati NATO abbiamo un impegno solenne per la nostra difesa collettiva e terremo fede a questo impegno. Continueremo a chiarire alla Russia che ulteriori provocazioni non serviranno a niente, tranne che ad aumentare il suo isolamento e diminuire il suo posto nel mondo. La comunità internazionale è compatta nell'opporsi a qualsiasi violazione della sovranità dell'Ucraina. L'intervento della Russia nel paese aumenterà il suo isolamento diplomatico e danneggerà la sua economia. Più avanti calibreremo le nostre risposte a seconda delle scelte della Russia, se decide di aumentare o meno la tensione. Credo che ci sia ancora una strada diplomatica per affrontare gli interessi delle due parti, sia russa che ucraina. Allora, Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Beda, una cosa si può dire, insomma, la sintonia perlomeno ora tra Bruxelles e Washington sembra totale, perfetta. Vorrei capire, anche alla luce delle dichiarazioni della Ashton, ma insomma, quali potrebbero essere i prossimi passi, perché insomma è chiaro che questa è una prima minaccia, abbiamo appena ascoltato Obama dire c'è ancora spazio per la diplomazia, attenta Russia che ti sta isolando dal resto del mondo. Non so quanto queste sanzioni obiettivamente possono indebolire il rublo, che già si è indebolito di suo da quando questa vicenda è scoppiata. Comunque, Beda. Ma ho l'impressione che bisogna ancora capire quali sono le sanzioni europee, nel senso che noi sappiamo che gli europei hanno colpito 21 persone, tra ucraini e russi. Non abbiamo ancora la lista in mano e quindi ci è difficile capire esattamente le differenze e le similitudini con le sanzioni americane. Sappiamo che gli americani colpiscono 11 persone, tra cui due consiglieri molto vicini al presidente Vladimir Putin. Da quanto sappiamo qui a Bruxelles, gli europei sembrerebbero essere stati più morbidi, fondamentalmente per due motivi. Prima di tutto perché l'Europa continua a essere divisa al proprio interno sul modo in cui affrontare questa vicenda. E poi perché i legami economici con la Russia sono molto molto forti, evidentemente. Non c'è soltanto il gas e la dipendenza di alcuni paesi dal gas russo. La Germania, per esempio, il 60% del suo consumo di gas viene da Gazprom. L'Italia anche ha una dipendenza molto elevata 30%. Dal gas russo. Quindi fanno molto attenzione da questo punto di vista qui. Dobbiamo cercare di capire quello che potrebbe avvenire. Il fatto che l'Europa abbia deciso di limitare la lista delle persone a 21 è interessante, perché la lista preliminare era di 120 persone. 21 persone è una cifra evidentemente molto più bassa e questo permette all'Europa di modulare le sanzioni. Nel caso è possibile aumentare il numero di persone all'interno della lista, in modo tale da così accrescere la pressione su Mosca se necessario e soprattutto evitare il passaggio successivo. E il passaggio successivo lo sappiamo perché i capi di Stato e di governi l'avevano individuato il 6 marzo sono sanzioni economiche nei confronti della Russia, che cosa l'Europa non vuole. Non vuole per i legami che tu ricordavi, il 30% del gas italiano è russo, ma il 40% anche del gas europeo. No, te lo chiedevo perché noi purtroppo in questi anni abbiamo già raccontato di sanzioni contro l'Iran, contro l'Iraq, sanzioni ad personam, cioè su singoli, su 21, non le avevo ancora mai viste, su 21 personalità, e tu se ho ben capito hai sottolineato come sia la prima fase, il primo passaggio, il primo step per vedere se poi non si debba aumentare queste sanzioni senza mai arrivare, però Beda, mi sembra che tu fossi abbastanza netto nell'escluderlo, all'ipotesi, perlomeno per l'Europa, di sanzioni commerciali vere e proprie. L'Europa le vuole evitare a tutti i costi, le sanzioni economiche vere e proprie, per due motivi. Prima di tutto per la dipendenza nei confronti del gas russo e poi per eventuali ritorsioni da parte della Russia. Noi sappiamo perfettamente che alcuni paesi, tra cui la Germania, la Francia e l'Italia, sono molto presenti nel mercato russo e vogliono evitare sanzioni che potrebbero penalizzare l'economia della zona euro, l'economia europea in generale. L'Europa in questo momento, e soprattutto direi la Germania, è combattuta tra il desiderio assolutamente di evitare sanzioni troppo forti contro la Russia per i motivi economici che abbiamo detto, e però anche molto preoccupata da eventuali cambiamenti frontalieri in Europa dell'Est che potrebbero in un modo o nell'altro rimettere sul tappeto, rimettere in questione gli equilibri trovati 25 anni fa dopo la caduta del muro di Berlino. Oggi il ministro degli esteri Frank-Walter Steinmeier è stato molto chiaro, ha spiegato che le sanzioni annunciate oggi servono da un lato a lanciare un messaggio alla Russia, dall'altro sì, a rassicurare i paesi baltici che sono molto vicini alla Russia e hanno al proprio interno comunità russofone che si sentono in difficoltà in questo frangente e temono anche loro, questi paesi baltici, di poter a un certo punto cadere nell'orbita russa come sta avvenendo in questo momento. No, Beda, ma tu hai spiegato molto bene cioè, quanto l'Europa sia preoccupatissima di fare le uniche sanzioni, quelle insomma, che abbiamo visto fare nel caso di altri paesi, Iran, Iraq, citavo come ultimi casi, per i rapporti commerciali più che diplomatici, energetici con la Russia, che però allo stesso tempo la stessa Germania si è preoccupata di non vedere ribaltare, minare quelli che sono i confini verso est. Staremo a vedere, non mi era ancora mai successo di vedere appunto le sanzioni effettuate su 21 persone, penso che serviranno a pochissimo, perché va bene, io capisco, magari sono importantissimi, ma sono sempre 21, ci fai una squadra di calcio con un po' di panchina. Meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta per parlare di Pirelli, che è il caso di oggi per quello che riguarda la finanza, dove i russi, e qui ci colleghiamo in qualche modo per carità di Rosnet, sono entrati in Pirelli, o meglio nella Camfin, che è la società che controlla il gruppo Pirelli. A questo punto loro hanno il 50% di Camfin, l'altro 50% ce l'hanno le banche e Marco Tronchetti Provera. Non si può dire che i russi abbiano il controllo perché hanno il 50%, però si può dire tranquillamente che sono il primo azionista, a questo punto unico azionista, di Pirelli. Ci sentiamo dopo il meteo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di Pirelli, e visto che parlavamo di Russia e di Crimea, la prima domanda che ho per il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. È questa, allora, i russi di Rosnet, che già avevano il 20% della Saras, quindi della famiglia Moratti, hanno rilevato la quota che era del fondo Clessidra in lauro, perché allora, la Pirelli è controllata sopra da una società che si chiama Camfin e sopra ancora da una società Euro 61. A quel punto è uscito uno dei soci, il fondo Clessidra. Questa quota se ho ben capito, del 13%, è stata presa dai russi di Rosneft. Però quello che a me interessa capire, la NewCo, la nuova società composta, cioè la nuova società sarà composta un 50% da Rosneft e un 50% da una nuova società che si chiamerà Nuove Partecipazioni, che ha l'80% di Tronchetti Provera e il resto alle banche. La domanda è molto semplice: comandano i russi oppure no? Allora, i russi hanno sicuramente un ruolo importante, essendo gli azionisti industriali secondi solo a Marco Tronchetti Provera. Questo è un po' il concetto. E quando si mettono sul piatto una cifra che valorizza sostanzialmente la quota in mano ai russi a circa un miliardo di euro, beh, un miliardo conta, quindi avranno anche da dire la loro. L'hanno pagato un miliardo o 500 milioni? Non si capisce. Dunque loro non hanno ancora fatto, diciamo così, la disclosure formale di quanto è stato fatto il contratto, però calcolando una quota che le azioni stanno a 12 euro e che di fatto loro entrano in possesso direttamente, perché è un po' come avviene per Telecom Italia attraverso le varie scatole, poi che cosa controllano di fatto? Controllano il 13% della nuova società, del gruppo Pirelli. Una valorizzazione del 13% li avvicina a circa un miliardo di dollari, che sono 700 milioni grosso modo. Quindi quella potrebbe essere la cifra che hanno pagato i russi per entrare. Allora, questa operazione ha un carattere puramente finanziario, cioè esce un socio, entra un altro, come le porte girevoli, oppure ha un carattere anche industriale? Ma io direi due cose, ci sono due o tre considerazioni da fare. Diciamo la prima è che chiunque si è avvicinato a Marco Tronchetti, al gruppo Pirelli negli ultimi anni, ne è uscito con le tasche piene, paradossalmente. Se pensiamo prima ancora di Clessidra, c'erano stati gli azionisti Telecom, mica tanto, mi permetto. Telecom, no, attenzione, sto parlando di Pirelli. Restiamo su Pirelli. Poi evitiamo, perché poi ci sono risparmi delle famiglie in gioco, quindi sicuramente non ci si scherza. Però il discorso è che da quando Tronchetti è ritornato in Pirelli, nelle varie vicende societarie che ha avuto, chiunque è diventato socio poi ne è uscito con grosse plusvalenze. È successo a Malacalza, è successo adesso a Clessidra, che è entrata pagando circa, è incassato circa 130 milioni di euro in più rispetto a quanto aveva pagato l'investimento. Bravo Sposito. Quindi se calcoliamo che in meno di un anno ha guadagnato 130 milioni, l'affare l'ha fatto. Però l'hanno fatto, è una cosa che conviene alla galassia Pirelli, ai suoi azionisti, ai risparmiatori, ai fondi. Sicuramente è molto più stabile un azionista come Rosneft, un azionista di lungo periodo, di carattere chiaramente industriale, perché bisognerebbe ritornare a dire: ma chi è Rosneft? Rosneft è il principale azionista, è un oligarca russo, si chiama Mikhail Friedman, però di fatto è il gigante di Stato della Russia. Certo. Quindi, ed è estremamente diversificato e va dalla finanza al trading petrolifero, all'estrazione, alla distribuzione. Allora, per Pirelli è importante per quale motivo? Perché entra un colosso globale di un paese in cui la Russia ha circa più o meno il 4% dei ricavi consolidati del gruppo Pirelli viene generato in Russia. È un mercato dove sicuramente i pneumatici dei Pirelli possono avere grandi sviluppi, non a caso hanno due stabilimenti tutti rinnovati in termini di tecnologie, quindi dal punto di vista industriale lo è sicuramente, ma anche per un altro motivo. Se andiamo a guardare le ultime operazioni fatte da Rosneft, sono molto interessanti. Perché? Perché si muovono sia sul settore finanziario, la ricerca dovrebbe comprare, e questo però ritorniamo sul discorso della Crimea, sta finalizzando l'acquisto di tutto il desk, ovvero la divisione oil and trading del olio e gas di Morgan Stanley. Questo è importante per quale motivo? Perché toccherà alla Commissione Affari Esteri americana darne l'autorizzazione, e in clima di sanzioni non è detto che il governo americano autorizzi Rosneft a questo punto ad acquistare la divisione del trading. Poi c'è un'altra operazione, in Germania con RWE, ha comprato l'olio e il gas di RWE, sono 7 miliardi. Insomma, Rosneft si sta muovendo ad ampia gamma. Fra l'altro l'Alfa Group, che è il gruppo che controlla Rosneft, quello di Friedman, come vi dicevo, è anche il principale azionista di Vimpelcom, che è il proprietario di Wind, la nostra compagnia di telefoni. Come vedete, le ramificazioni sono enormi. Sì, ecco, quello che era importante, e tu secondo me l'hai chiarito, era capire due cose. A, non è un socio finanziario, perché il socio finanziario era Clessidra, un fondo di private equity che sta 5 anni, 4 anni, 6 anni, come tutti i fondi di private equity, quando guadagna e poi esce. E questo è l'obiettivo, lo scopo di un, non c'è niente di male, lo scopo di un fondo di private equity. Qui siamo con un partner industriale che ha un'ottica di medio e lungo termine, e quindi già cambia la prospettiva. Di solito con un'ottica di medio e lungo termine tendi a non guardare solo al ROE, al ritorno sull'investimento, ma a voler anche decidere quali diciamo, strade di politica e di strategia industriale intraprendere. Però vi faccio un esempio, guarda, concreto. Che, dov'è già il contatto fra Rosneft e Pirelli? Esisteva già, questa gente, molte cose di queste sfuggono. Loro hanno già in essere dal dicembre del 2012 due accordi molto importanti. Uno nella ricerca dei nuovi materiali per la gomma, dal petrolio, gomma, pneumatici, e un altro per il marketing, per la commercializzazione dei prodotti in Russia. Quindi l'accordo risale già al 2012, le sinergie sono sia nel campo della ricerca che poi in quello della rete di distribuzione, che è quello, diciamo così, di un colosso come può essere Rosneft. Questo va sicuramente tenuto presente. Ma una riflessione in più che vorrei farvi è, ragioniamo, perché voi citavate, tu Sebastiano citavi giustamente il caso della Saras, no? Sì. Sì, ma ricordiamoci che Lukoil ha già comprato sostanzialmente gran parte dell'attività della ERG. Quindi abbiamo Rosneft, Lukoil, i grandi colossi del petrolio russo che sono già in posizioni di primo piano del mercato. Ecco, poi chi vuole un po' dilettarsi, andare oltre, può immaginare, alla luce anche di questa operazione, del fatto che la Rosneft controlla già il 20% della Saras, che Lukoil controlla la ERG, e le partecipazioni, può già immaginare quale sarebbe, diciamo, lo scenario da far tremare i polsi di un'eventuale sanzione commerciale europea contro la Russia, nel senso che è brutto dirlo, perché uno dovrebbe dire no, ma le sanzioni si fanno solo sui principi, sui diritti e i valori. Non è così, è impensabile, ecco perché Europa sta cercando una soluzione. È impensabile intanto perché si bloccherebbe il nostro export verso la Russia, noi abbiamo un mercato di sbocco importantissimo. Ci sono le banche italiane, le banche austriache, le banche tedesche in Russia, e ci sono tutte le partecipazioni russe anche in Italia. Ecco perché lo scenario di una sanzione come l'abbiamo conosciuta per altri paesi, so già che alcuni diranno, ecco vedi, se sei la Russia è una cosa, se sei la Serbia è un'altra. Avete ragione, è così però. Alessandro. Sì, sicuramente questo. Quello che possiamo anche, diciamo così, aggiungere in questa partita è che in questo momento l'Occidente non può fare a meno, purtroppo, in questo senso, perché è un fatto di necessità, dei capitali che vengono da aree del mondo che prima avevamo difficoltà persino a prendere in considerazione. È stato così per il mondo arabo, è così ancora per il mondo arabo, e questo riguarda anche la Russia, o tutto, diciamo così, il blocco degli asset che fanno riferimento all'ex Unione Sovietica. La posizione e l'imbarazzo in queste sanzioni, guarda, leggevo poco fa una nota di stampa del vicepresidente russo che diceva: caro compagno Obama, che cosa farai con quelli di noi che non hanno asset all'estero, che non hanno conti all'estero? Nulla. Per cui questa lista, direi, è puramente formale. Sì, è un battere un colpo, è una realpolitik ormai estesa per dire che ci siamo. Qualcuno mi contesta su ROI, ho detto che il private equity mira esclusivamente al ritorno sull'investimento, al ROI, ritorno on equity, volevo dire ritorno sull'investimento in equity fatto. Non così solo, siamo, possiamo dire così, in breve tempo, 2-3 anni, non ci vogliono stare di più. E così siamo tutti d'accordo. Adesso il traffico, poi invece parliamo del resto della borsa, partendo da Pirelli, perché il titolo ha perso il 2,24%. Questa è l'uscita dei fondi speculativi, certo, perché non c'è più instabilità nel capitale. Questo è importante. Secondo punto, per concludere, la reazione positiva di tutti i mercati finanziari oggi è legata forse proprio a quella lista di cui parlavi tu. Cioè che quando le sanzioni sono meno dure. Non c'è paura. O sono solo, diciamo, di forma e non di sostanza, i mercati si liberano di questo. Ne parleremo. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. Allora, di Pirelli abbiamo ampiamente parlato, meno 2,24%, ha ragione Alessandro Platerotti, sono i fondi speculativi che poi escono, ma fanno bene, anche perché il titolo era 11,77 euro. Invece, restando sul tema di chi oggi ha fatto notizia in borsa, A2A più 7,1%, come sempre commento con Radio Cori Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. A2A. A2A è stata una delle migliori tra le azioni del FTSE MIB. Venerdì scorso la società ha pubblicato i conti, l'utile netto in verità è calato del 76% a 62 milioni, ma perché l'azienda ha effettuato delle svalutazioni al netto delle quali in verità l'utile sarebbe salito di oltre il 30%, tant'è vero che i vertici di A2A hanno deciso di alzare il dividendo del 27%, operazione che ovviamente è piaciuta molto al mercato, ma al di là di questo piace anche c'è un po' di appeal speculativo, visto che i vertici di A2A nel corso della conference call venerdì scorso hanno indicato che l'azienda si propone di essere protagonista nel processo di consolidamento che si delinea per il settore dell'energia. Dunque tutto questo ha, diciamo, incoraggiato gli ordini in acquisto. In acquisto. Questo per quello che riguarda A2A, invece Finmeccanica più 6,26%. Sì, Finmeccanica si è messa in evidenza, visto che mercoledì la società pubblicherà i conti del 2013 e soprattutto ci si attende, secondo indiscrezioni di stampa, che siano annunciati notevoli tagli dei costi ed efficienza. Si parla di 900 milioni nell'arco di tempo di 24-36 mesi. Se fosse vero, questo andrebbe ovviamente a sostenere i conti dell'azienda, che invece subiranno probabilmente il contraccolpo del calo degli ordini degli F-35, come pare che si stia delineando dalle ultime dichiarazioni. Sì, anche se non è ancora chiaro, ho già parlato anche il ministro della difesa, però non è ancora chiaro di quanto, a quanto ammonterà questo probabile calo. Unicredit più 5,50, bene anche Monte dei Paschi più 3,40, Pop Emilia Romagna più 3,30, e vado avanti con i bancari assicurativi, Unipolsai più 2,80, Pop Milano più 2,70%. È salita oggi bene anche Telecom più 3,90% e Mediaset più 4,40. Allora, se riusciamo a fare Unicredit, Mediaset e Telecom, rapidi. Sì, Mediaset ormai va sempre con l'indice, quindi è salita di oltre il 4%. Per quanto riguarda Telecom Italia, ha beneficiato del processo di consolidamento del settore delle telecomunicazioni, in questo caso in Europa. Infatti Vodafone ha acquistato l'operatore spagnolo Onoa per oltre 7 miliardi, mentre venerdì scorso Vivendi, la francese Vivendi, ha dato l'esclusiva a Numericable per vendere SFR, società di telefonia mobile, su una base di acquisto di 11,75 miliardi. Infine, per quanto riguarda Unicredit, oggi a riaccendere i riflettori sulla banca è stato il Financial Times. Pioneer. Ha ipotizzato che Unicredit abbia allo studio la quotazione della controllata Pioneer, attiva nel comparto del risparmio gestito. Questo andrebbe ovviamente ad aggiungersi ad altre operazioni che sono già state annunciate, come la quotazione di Fineco e la cessione di alcuni asset, e ovviamente andrebbe a impattare positivamente sui fondamentali dell'istituto. Allora, altri titoli, CNH Industrial bene, più 3,90%, bene oggi tutti gli energetici, Enel più 3,70%, ma cito anche dove mi è finita, Snam più 1,90%, Enel Green Power più 2,40%, Eni più 1,34%, Pirelli abbiamo già detto, i migliori e peggiori in assoluto, Worldspace più 25%, Ceramiche Ricchetti più 19% e Prelios più 7,70%. Fronte opposto invece, Centrale del Latte di Torino meno 10,50%, Kering meno 5%. Tra i titoli segnalo anche, appunto, oltre a Telecom ce n'è anche Enel, Buzzi Unicem più 3,40% e Ansaldo STS più 3,24%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Devo dare però, avete ragione, anche Ferragamo meno 0,14% e tra i titoli, tra risparmio gestito, Azimut più 2,5%. Dicevo, adesso c'è il GR24, poi di nuovo in diretta per commentare quello che sta emergendo dall'incontro Merkel-Renzi. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi sul ragionamento che abbiamo fatto per quello che riguarda le sanzioni europee, non solo quelle americane, alla Russia. Io non ho detto che sia giusto così, ho detto solo che se vogliamo guardare con un po' di realpolitik, di realismo, quello che capiterà è brutto dirlo, ma ho fatto l'esempio della Serbia o comunque di altri paesi. quando tu hai di fronte un partner commerciale fondamentale sia per l'approvvigionamento energetico, 30% del gas italiano e russo, 40% del gas che arriva in Europa è russo, sia sul fronte bancario, tutte le banche tedesche, austriache, italiane presenti in Russia, che sul fronte commerciale vero e proprio dell'export, più le partecipazioni societarie, visto che commentavamo l'ingresso dei russi di Rosneft in Pirelli, di cui a questo punto avranno 13%, hanno già il 20% di Saras e via così, è molto molto difficile che si arrivi a delle sanzioni vere e proprie. E infatti le sanzioni su 21 persone avranno un effetto risibile e la borsa infatti ha festeggiato. Restiamo in tema di relazioni internazionali, però ci spostiamo a Berlino, dove potrebbe iniziare tra pochissimo la conferenza stampa dopo l'incontro tra Angela Merkel e il premier Matteo Renzi. L'Italia era rappresentata anche dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan, dallo sviluppo economico Federica Guidi, dall'infrastruttura Maurizio Lupi, del lavoro Giuliano Poletti, della difesa Roberta Pinotti e il ministro degli esteri Federica Mogherini. Allora, ripeto, non è ancora iniziata la conferenza stampa, ma siamo in collegamento con l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Buonasera. Buonasera a voi. Gerardo, è trapelato qualcosa? Io le citavo questa mattina un articolo molto critico dello Spiegel, che diceva Renzi viene, scusatemi, spera in una licenza per fare debiti. Abbiamo già ricordato le dichiarazioni dei giorni scorsi di Renzi, invece, che ha detto non siamo degli studenti col cappello d'asino. Da mettere dietro la lavagna. Esatto. Ecco, come sta buttando? Ma da quel poco che trapela, visto che siamo qui concentrati nella cancelleria e quindi soltanto qualche portavoce ogni tanto ci distilla qualche pillola del suo sapere, però da quello che sta emergendo, la cancelliera è incuriosita, l'aveva incontrata a luglio, già quando non era ancora premier Renzi, è molto incuriosita da questo dinamismo del nuovo premier italiano. Forse le novità, se così possiamo chiamarle, sono più quelle che sono emerse in un breve ma significativo incontro del ministro dell'economia Padoan con il suo omologo Schäuble. Si erano già visti qualche giorno fa a Bruxelles per l'Eurogruppo, si conoscevano quando Padoan era all'Ocse, quindi c'è già, diciamo, una frequentazione e un rapporto consolidato, però sembra che Schäuble abbia detto non se ne parla neppure di sforare i tetti del 3%, i tetti imposti da Maastricht, neppure per investimenti o quant'altro, quindi deroghe proprio assolutamente no. Si parlerà e si è parlato anche di politica, tu ricordavi prima le sanzioni, prima di questo vertice italo-tedesco il ministro degli esteri Mogherini era con il suo collega Steinmeier a Bruxelles, poi con l'aereo italiano sono arrivati insieme e praticamente il loro incontro bilaterale l'hanno tenuto sull'aereo e hanno discusso appunto delle sanzioni che, come tu dicevi, non sono devono tener conto un poco della realpolitik e anche dei problemi economici, non colpiscono ancora il governo, soltanto i militari. Ecco, siamo a minuti, dovrebbe cominciare la infatti cercheremo stampa. Dimmi Gerardo. Sì. No, stavo guardando anche noi le immagini che ci, mentre tu parlavi, perché tra pochi minuti dovrebbe iniziare la conferenza stampa, vediamo, dicevo, se riusciremo a farvi ascoltare qualche passaggio, però appunto le indicazioni arrivate dal ministro della finanza, il falco Schäuble, già la dicono lunga sulla non intenzione, diciamo così, della Germania di prendere in considerazione un allargamento dei parametri. Casomai ti riavremo ospite, perché mi rendo conto che siate tutti pronti per la conferenza stampa. Grazie intanto all'inviato del Sole 24 Ore Gerardo Pelosi. In realtà c'è chi aveva già scritto oggi sulla stampa: non vi fate illusioni sulla benevolenza tedesca, aggiungendo in cauda venenum, dico io, l'Italia manca di credibilità. E mi riferisco al direttore del Center for European Policy Studies, Daniel Gross, nostro ospite già altre volte. Buonasera, direttore. Buonasera. Allora, intanto mi dica però una cosa: Schäuble dice non se ne parla neanche di sforare il 3%, però la Germania nel 2003 lo sforò sto 3% quando l'economia tedesca non andava così bene. Cos'è? Non era un tabù allora, lo è diventato adesso? Sì, perché hanno visto che hanno loro stesso infranto una regola a cui tenevano e tengono tuttora moltissimo, e si dicono mai più. Noi abbiamo peccato, ma questo non permette a tutti gli altri di peccare senza fine. Sì, oddio, sarebbe come se passassi col rosso e dicessi voi non fatelo perché è sbagliato. L'idea, intanto non farlo tu. Vabbè. Detto questo, dopo il traffico invece vorrei capire, immagini, perché è vero che la Spagna, intanto non è la Germania che decide se un paese sfora o no, è Bruxelles. Però è ovvio che il paese principale nell'area euro una sua voce in capitolo ce l'ha, e come, e questo vertice doveva servire a sondare, se ho ben capito, e vedere che quanta strada, quanti margini, quanto stretta fosse la strada per ottenere un po' più di flessibilità sul deficit, e sondare questa strada dal primo paese dell'Europa. Già nel fine settimana Renzi ha incontrato Hollande. Devo dire che ho trovato alcuni titoli dei giornali un po' troppo ottimistici. A me non sembra che Hollande abbia detto vai, andiamo avanti. Hollande continua a giocare la politica dei due forni, di cui uno dei due forni è la Germania. La Francia non vuole sganciarsi dall'asse, diciamo, dall'asse renano, per cui su questo mi sembra che ci fosse un po' troppo ottimismo su alcuni giornali ieri. Ne riparliamo dopo il traffico. Allora, Daniel Gross, per far capire a tutti, però, due paesi come la Francia e la Spagna hanno ottenuto, la Francia viaggia con un deficit del 4% quest'anno, e infatti sono sotto procedura di osservazione. Però il motivo per cui si è meno pronti, o la Germania comunque non ne vuole sentire parlare, di un deficit un po' più alto per l'Italia, è per il debito italiano, oppure perché si ritiene che, come ho ben capito scrive lei, l'Italia manchi di credibilità, per cui io ti posso dare anche uno 0,3, non cambierebbe nulla se chiudessimo il deficit al 3,3%, che vorrebbero dire 4-5 miliardi di euro in più, forse anche 6, però non siete credibili nel modo in cui li spenderete. Più il debito o più la credibilità? Giocano tutti i due. Non bisogna dimenticare che l'Italia ha fatto questo argomento già moltissime volte. Permetteteci solamente quest'ultima volta di avere un deficit un po' più grande, vedrete la crescita torna e poi dopo tutto si aggiusta. Non è mai stato così. E poi bisogna anche rendersi conto che l'Italia per il momento è fuori dalla procedura, per cui può andare fino al 3%, ma se va oltre rientrerebbe nella procedura, e essere uscito un anno fa promettendo adesso cambiamo rientrandoci dopo 8 mesi non mi pare una politica che poi ispira molta credibilità. Ecco, e secondo lei invece, guardando dal fronte italiano, che cosa potrebbe ottenere Renzi? Perché in alternativa si è detto, beh, se l'Italia poi si presenta, ed è, se ho ben capito, quello a cui punta Renzi, nel momento prima dell'arrivo della presidenza europea, del semestre italiano di presidenza europea, con delle riforme già messe in atto, aumenta la sua credibilità e si può chiedere con maggior forza: bene, abbiamo fatto le riforme per rendere il paese più competitivo, per aumentare anche internamente la sua crescita, adesso abbiamo o chiediamo delle politiche più per la crescita anche a livello europeo. Secondo lei è un doppio binario che potrebbe funzionare? Sì, è chiaro che un governo che ha già fatto delle riforme ha più credibilità. Ma che cosa vuol dire aver fatto le riforme? Anche con Monti molte cose sono state fatte, nel senso che il Parlamento ha passato delle leggi, ma poi dopo ci si è accorto che un buon 40%, 50% non è stato implementato perché mancavano i criteri attuativi e altre cose. Mm-hmm. E ho paura che questo sarà anche il destino della riforma Renzi se la si fa in 100 giorni. Mm-mm. No, devo dare una risposta invece a un ascoltatore che dice: ma insomma, mica la Germania quando deve fare la manovra finanziaria viene da Renzi a chiedere la benedizione. No, in questo caso, permettetemi di non essere d'accordo, non è una benedizione che uno va a chiedere, è il tentativo di diplomazia, e questo va fatto, di politica estera, di spiegare alla Germania il percorso che deve fare il governo e vedere appunto su quali, in quali pieghe infilarsi, su quali margini, ammesso che vi siano, di flessibilità la Germania si è disposta ad accettare. È politica estera, per fini economici, ma è politica estera, non mi sembra, anche perché non c'è nessuna finanziaria allo studio. Noi, Renzi, le riforme le ha annunciate, le fa, che piacciono o non piacciono alla Germania, no, non mi sembra questo il punto. Senta però, Grosse, allora, immaginando che la Germania dica no, oltre il 3% non si va, ma a livello europeo tutta questa retorica che vedo usare anche molto da altri politici europei sull'Europa che deve pensare anche alla crescita, perché è l'unica area, quella dell'euro, che si è beccata la seconda recessione, che crescono delle altre aree del mondo, ma poi tutta questa retorica a che cosa potrebbe portare? Cioè, perché io vorrei anche uscire dalla frase bisogna pensare alla crescita, e chi è che vuole pensare alla decrescita? Però concretamente lei che margini vede a livello di Bruxelles in questo caso, non più di Italia e Germania? Dunque, in Europa molti parlano della crescita, ma in verità l'Europa in quanto tale, in quanto istituzione europea, può fare proprio per la crescita. Per quanto riguarda la politica fiscale, è chiaro che a breve termine magari un deficit più grande può portare più crescita, ma se c'è un paese per il quale questa ricetta è stata utilizzata per quasi 15 anni, nel quale non ha mai funzionato, è l'Italia. Per cui sì, giusto, magari della politica fiscale qualche margine ci sarebbe in genere per la crescita, ma non nel caso italiano. Quindi le dice: se c'è qualcuno che può parlare di questo, non sono certo gli italiani. Ma lei, realisticamente, visto che oggi siamo tutti in versione realpolitik, immagina che qualche cosa partorirà l'Europa, visto che abbiamo visto anche le prese di posizione di Mario Draghi sulla crescita, oppure alla fine si faranno tante dichiarazioni, tanti annunci, ma nulla cambierà nell'architrave, diciamo, della politica economica dell'area euro? Purtroppo io non vedo spazio per molti cambiamenti. Per la politica fiscale non sarebbe unicamente la Germania e l'Europa che potrebbe fare qualcosa, ma non vogliono e si sono anche legati le mani giuridicamente. Il Sud non lo può fare e ho paura che la politica monetaria sia poco efficace. Cioè, dice, tassi bassi non bastano? Ho paura che un abbassamento dei tassi, che poi i tassi a breve sono già zero. Sì, certo. Si potrebbe fare un QE per diminuire i tassi a lunga. Mm-hmm. Cosa succede se i tassi a lunga diminuiscono? I tedeschi hanno ancora meno, come dire, introiti, guadagnano meno sui loro risparmi e potrebbero ridurre i loro consumi. Mm-hmm. Il Sud magari avrebbe qualcosa in più da spendere, ma penso che molte imprese nel Sud, magari anche molte famiglie, reagirebbero dicendo: ok, meglio ridurre un po' il debito piuttosto che spendere questo che paghiamo di meno interessi. Per cui alla fine la politica BCE potrebbe rivelarsi inefficace. E una politica efficace che lei vede qual è? Purtroppo, così come è fatta la zona euro, non ne vedo a breve termine. Grosse, vuole uscire dall'euro anche lei? No, ma certe cose non si possono cambiare a breve termine. Si vede il primo aggiustamento in alcuni paesi tipo Spagna e altri. L'economia tedesca sta ripartendo lentamente. Con un po' di pazienza la crescita tornerà, gli strumenti per farla ripartire molto a breve termine comunque non li vedo. Grazie, grazie per questa entrata d'ottimismo. No, ma a parte gli scherzi, è importante che lei ci dica realisticamente quello che pensa. Grazie al direttore del Center for European Policy Studies, Daniel Gross. Perché non siamo credibili? Noi abbiamo fatto una rubrica, quasi diventata una rubrica, sugli sprechi della pubblica amministrazione italiana, comuni, province, regioni, ministeri, Parlamento. Allora, qualche idea la vogliamo dare anche noi. Magari non siamo credibili, così andiamo avanti con la nostra rubrica, perché dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione c'è una sovrapposizione tra regioni e Stato. Per esempio, cito il caso, perché è prevista la riforma di Renzi sul disegno di legge costituzionale, di riportare le competenze esclusive tra le competenze esclusive dello Stato il commercio con l'estero. Mi dovete spiegare perché, non so, la Campania spende $1.400.000 l'anno per affittare un lussuoso appartamento a New York dove organizza conferenze rigorosamente in italiano, oppure perché la regione Friuli Venezia Giulia debba occuparsi dell'esportazione di piante, di viti e di altri prodotti e ha organizzato una missione a Baku, capitale appunto della Repubblica Caucasica dell'Azerbaigian. Mi dovete spiegare perché quando andò un paio d'anni fa il consigliere del Lazio Raffaele D'Ambrosio si recò a Giacarta come vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, una bella delegazione a Giacarta, e il comunicato recitava, devo questo al collega Rizzo: nel corso della visita è stato ricevuto dal sultano di Ternate Muzaffar Sia e da altre autorità del luogo. Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Raffaele D'Ambrosio, ha incontrato anche il Maharaja Raya Agung e al termine della sua visita è stato ricevuto dal vice ambasciatore Mario Alberto Bartoli, vice ambasciatore. Sandokan, Tremannai, che la pella di Labuan, no? Ma andiamo avanti, perché poi le regioni hanno speso dal 2009 al 2011 mediamente 1 miliardo l'anno per promuovere l'Italia all'estero, mentre scivolavamo al quinto posto per presenza estere e al 26esimo per competitività. Cioè non è servito a quasi nulla mandare le regioni a fare le loro missioni, anche perché poi la riforma costituzionale prevede per esempio il divieto di versare contributi pubblici ai gruppi politici, quindi i vari Batman ce li risparmieremmo. E domani suggeriremo a Cottarelli, che lo sa benissimo in realtà, perché nella spending review dovrebbe far entrare anche l'ACI. L'ACI è il doppione della motorizzazione civile, ha 3.000 dipendenti, occupa 800 poltrone ben remunerate, ha 106 comitati provinciali e il presidente prende 236.000 euro di stipendio, poi ha 3 vicepresidenti e un segretario generale che ne ha 300.000 euro di stipendio, e poi i club a livello provinciale. L'ACI è una di quelle cose che non andrebbe chiuso, l'ACI, che è una cosa privata, ma andrebbe levata dall'ACI la funzione che può fare benissimo la motorizzazione civile, in attesa di avere la telefonata dall'ACI e dagli uffici stampa dell'ACI. Io vi saluto, Focus Economia torna domani, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata.